Sì, il nostro resta un giudizio complessivamente positivo su alcuni punti, che sono la condivisione dell'obiettivo di arrivare al pareggio di bilancio nel 2011, la volontà di portare avanti un taglio alla spesa pubblica significativo. Questo Paese ormai da molti anni ha un aumento della spesa corrente del 2,5%, quindi bisogna assolutamente ridurla. Ci piace la parte di semplificazione, sia sulle imprese che sui cittadini e soprattutto per quanto ci riguarda sulla semplificazione, tutta una serie di richieste che noi abbiamo fatto sono state accolte. Ci piace la parte sul welfare, per esempio sull'abolizione del cumulo salari e pensioni, ci piacciono alcune diciamo, semplificazioni sulla parte lavoro, ci piace il tema sui contratti a termine, questa parte diciamo, ci piace. Ci sono due aspetti su cui evidenziamo delle criticità, una è l'investimento non sufficiente in infrastrutture, c'è un calo di investimenti in infrastrutture che è un po' che insomma noi vediamo in modo critico in un momento in cui la congiuntura è così scarsa e così debole, un maggiore investimento in infrastrutture potrebbe aiutare la crescita. E l'altra cosa che sottolineiamo è che pure in una logica di equilibrio dei conti pubblici, che per noi è fondamentale, noi chiediamo e pensiamo che sia assolutamente opportuno andare verso una riduzione della pressione fiscale per quanto riguarda le imprese, per quanto ci compete, ma anche il lavoro dipendente, che è un obiettivo che deve rimanere. Quindi noi chiediamo che tutto quello che verrà dalla lotta all'evasione fiscale, che deve continuare, deve andare a ridurre la pressione fiscale sulle imprese, e chiediamo anche che se ci sarà più crescita, come tutti noi auspichiamo prossimamente, questa crescita deve essere utilizzata, cioè i soldi, diciamo, le risorse che vengono dalla maggiore crescita devono essere utilizzate per ridurre la pressione fiscale sulle imprese e sui dipendenti, sul lavoro dipendente. Quindi questi sono i due punti che evidenzieremo come punti un po' critici su cui chiediamo che ci sia un impegno del governo.